Investire informati. Ci ritroviamo anche oggi con Investire Informati, il nostro appuntamento del giovedì in cui commentiamo i fatti di cronaca finanziaria per cercare di orientare i nostri ascoltatori sui temi del risparmio e gli strumenti per risparmiare. Lo abbiamo presentato poco fa e abbiamo il piacere di riavere con noi Sergio Trezzi, Country Head di Invesco per l'Italia, oltre ad avere un'altra importante carica a livello europeo che adesso vado a spiegarvi. Dottor Trezzi, intanto benvenuto. Oggi abbiamo avuto un avvio un po' rocambolesco, però... Le è piaciuto, ma credo che... abbiamo fatto un po' un'imboscata, esatto. Non capita tutti adesso i giorni trovarsi con Giacomo Poretti, ci siamo, no? Sì. Bellissimo, dicevo, ma credo che se contestualizziamo quello che ci ha detto, è vero, i soldi non sono tutti e forse bisogna avere la giusta freddezza anche nel gestire il proprio portafoglio, cosa che talvolta non avviene. Hai visto questi uomini freddi della finanza che in realtà si fanno delle grandi domande. Peraltro pensavo anche pensavo prima, quando Giacomo diceva è un libro sulle grandi domande, anche nella finanza in questo momento se ne fanno tante. Quando la banca centrale americana riprenderà ad aumentare i tassi di interesse, cosa farà oggi Mario Draghi? Hanno ben poco di spirituale, però bisogna farsi delle domande anche di questo tipo, perché i nostri soldini sono importanti e forse quando li gestiamo bene ci fanno vivere un po' meglio anche la nostra spiritualità. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per interagire con noi, la modalità è sempre la stessa. Seguiteci con attenzione perché ad un certo punto della trasmissione vi faremo il solito domandone per testare se la nostra lezione ha lasciato un segno e naturalmente i primi che risponderanno correttamente un libro della nostra biblioteca. Dottor Trezzi, io ho ripescato ieri, preparando questa trasmissione, la puntata in cui è venuta a trovarci l'ultima volta. Era giugno, eravamo nel bel mezzo della crisi greca e delle trattative estenuanti con i creditori internazionali. Mi ricordo molto bene la posizione molto coraggiosa che lei aveva espresso. Aveva dichiarato che una Grexit in quel frangente era un'opzione possibile e anche molto concreta. Poi abbiamo visto che è stata scongiurata. Oggi addirittura la Grecia è scomparsa dai giornali, ha lasciato il posto ad altri temi. Se dovessimo fare una classifica degli argomenti più importanti al centro delle analisi degli investitori, con poi immagino anche le inevitabili ricadute anche sulle scelte di risparmio dei piccoli risparmiatori, che temi indicherebbe? Quali sono i focus più importanti vostri in questo momento come casa di investimento? Allora, innanzitutto è importante ricordare che la Grecia è uscita dal radar screen dei giornali, ma continua a essere comunque un argomento molto importante dal nostro punto di vista dei mercati finanziari. Infatti si è passati da una discussione di esce non esce a un concetto di dire quando i prestiti saranno rimborsati e come questi prestiti riescono a sostenere l'economia reale. Quindi la Grecia continua ad essere un sorvegliato speciale, continua a essere un oggetto che può creare instabilità sui mercati. Certo, oggi la percepiamo meno. L'argomento dove oggi c'è la maggior enfasi è chiaramente la politica monetaria. Come questa funziona, come c'è la divergenza tra paesi anglosassoni e paesi invece europei piuttosto che giapponesi. E ritornando a quello che diceva prima di farci delle domande, noi abbiamo una grande domanda e la nostra grande domanda è come i paesi anglosassoni, che oggi hanno un'economia chiaramente più sana di quella europea e giapponese e magari in un ciclo economico leggermente più avanzato, sapranno reagire ad un eventuale aumento dei tassi. Non dimentichiamoci che viene dato per scontato il fatto che la classe politica sappia fare questo, ma non dimentichiamoci che né Barack Obama né Cameron, i due premier in questo momento, hanno mai governato in un momento di aumento dei tassi. Ah, hanno avuto sempre vita facile con uno scenario di politica monetaria espansiva, come si dice quando i tassi scendono. E quindi questo è un tema di interesse. Questo è un tema molto importante, perché ha un impatto chiaramente sulla politica economica del singolo paese. E abbiamo visto come una regione simile a quella europea, a livello di ciclo economico come il Giappone, nel momento in cui si è utilizzata la banca centrale, questa non ha funzionato, si è cercato di fare nuove politiche sociali, ricorderemo quelle che sono chiamate le frecce di Abe, non hanno funzionato. L'Abenomics. Non hanno funzionato e che ci porta a dire che la politica monetaria non è solo un elemento, ma deve essere... Stavo pensando, appunto, la Banca Centrale Americana probabilmente riprenderà ad aumentare i tassi di interesse, forse a dicembre, forse hanno spostato ancora più in là la prima azione. Non vorrei che davvero Barack Obama volesse lasciare totalmente la patata bollente al nuovo presidente degli Stati Uniti, perché si va ad elezioni l'anno prossimo, per cui insomma grazie per averci lanciato questo tema di discussione che non mancherà di animare le nostre puntate di Investire Informati l'anno prossimo. Mi sembra molto interessante. Allora, tra l'altro, politiche monetarie, oggi sì, lo so che devo fare la borsa, però volevo l'occhio? Anche dire, esatto, un piccolo commento su quello che succede oggi a Malta, alla Valletta, perché il direttivo della BCE oggi è riunito lì. Due volte l'anno la Banca Centrale Europea va in trasferta, porta tutti i membri del direttivo, che sono 25 se non mi ricordo male, in trasferta o in una capitale europea, insomma in una città fuori a Francoforte. Vanno sempre in un bei posto, un po' come i convegni dei medici, non li fanno mai a Trofarello, no? No, neanche a casa al Pusterlengo, senza nulla togliere a Trofarello. Cosa ci aspettiamo oggi da Draghi, Trezzi? Oggettivamente potrà sorprenderci, ma non credo. Credo che un buon governatore ha come obiettivo quello di dare stabilità, non avere sorprese e assicurarsi che il suo approccio sia lineare. Non dimentichiamoci che alcun tempo fa aveva indicato come il suo livello di protezione dell'euro fosse la priorità. Sappiamo che quando guardiamo i dati economici l'Europa non è ancora avanzata, vediamo che c'è ancora tasso di disoccupazione, vediamo che l'inflazione non è cresciuta e vediamo che la pressione dei prezzi delle materie prime continua a essere. Quindi credo che non vedremo uno scenario diverso da quello delle riunioni precedenti. Quindi certo, modifica che il quantitative easing Draghi, o quantomeno preannuncerà qualcosa orientato ad una modifica delle dimensioni, dei tempi, del piano di riacquisto dei titoli di Stato. Assolutamente, non vediamo un motivo di aumento in Europa dei tassi, no? Anzi, vediamo proprio una fase totalmente divergente tra paesi anglosassoni e paesi europei. Anzi, credo proprio che la forza di Draghi sia quella di riuscire a influenzare la politica americana, perché evidentemente gli americani sanno che un aumento dei tassi nel loro paese avrà un impatto sì sui rendimenti delle loro obbligazioni, ma anche sul dollaro euro come cambio, e credo che questo rappresenta oggi un elemento molto molto importante nelle mani di Draghi, che non vuole rendimenti sfruttare. Delle obbligazioni, mercato valutario e tanto altro ancora dopo aver dato un'occhiata alla seduta di borsa di oggi. A tra poco. Cuore e denari. Ritrovati a Cuore Denari, oggi abbiamo l'appuntamento con Investire Informati, la nostra rubrica del giovedì per commentare i fatti di cronaca finanziaria, spiegarvi i termini del risparmio, come funzionano i prodotti di investimento, cosa fare a seconda di come si muovono i mercati. Con noi questa mattina Sergio Trezzi, Country Head per l'Italia e capo del business retail di Invesco in Europa. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Ci siamo lasciati naturalmente con il tema che è nel cuore principalmente adesso di tutta la comunità economico-finanziaria nazionale ed internazionale: cosa faranno le banche centrali, dove andranno i tassi di interesse. Il focus odierno è sulla Banca Centrale Europea, la riunione alla Valletta, Malta, di Mario Draghi and Company, e quindi cerchiamo anche di capire un po' come si orienteranno le scelte future per quello che riguarda il quantitative easing. Ma dottor Trezzi, i tassi di interesse, lei ce lo ricordava bene prima, in Europa sono ad un livello straordinariamente basso, bassissimo, uno scenario di grande appeal per chi si accinge adesso a fare il mutuo per l'acquisto della propria casa, ma è molto meno attraente per chi investe in titoli di Stato. Come ci si comporta in un contesto di tassi di interesse di questo tipo, che rimarrà tale probabilmente ancora a lungo? Sicuramente quello che sappiamo è quello che non dobbiamo fare. Innanzitutto non dobbiamo investire in obbligazioni a brevissimo termine, sappiamo che ci sono rendimenti molto bassi, sappiamo che se vogliamo cercare rendimento dobbiamo aumentare il livello di rischio, e se vogliamo aumentare il livello di rischio dobbiamo quindi capire che il nostro orizzonte temporale è più lungo. Ci sono delle opportunità nelle obbligazioni a yield, possiamo trovare delle opportunità sui mercati emergenti, ma soprattutto possiamo trovare ottime opportunità in azioni di aziende europee che hanno dei fondamentali molto buone e che forse oggi sono state troppo sottovalutate da un andamento generico del mercato al ribasso. E ci sono alcuni settori estremamente interessanti che oggi sono stati impattati da tematiche quali la riduzione dell'energia o dei commodities, mm-hmm. che invece continuano a produrre grandi profitti, e non a caso uno degli aspetti. Quali sono per esempio questi settori? Perché ad esempio in questi giorni abbiamo fatto un grande approfondimento sul tema del lusso, no? Tutte le società sono cresciute molto in Cina e quindi sono state molto penalizzate dal rallentamento cinese, quindi escludendo il lusso europeo da queste categorie promettenti, lei che cosa ci mette? Chi sta beneficiando della riduzione del prezzo del petrolio e dal calo dirompente dei prezzi delle materie prime? Ma sicuramente tutte le aziende che oggi hanno una capacità di produrre energia o che rappresentano nel settore degli utili è in grado di dare servizi richiesti costantemente dalla clientela. Quando guardiamo a questo genere di aziende, sono capaci, avendo una domanda costante di servizio, di generare utili. Se sono state in grado di riorganizzare la loro struttura e la loro attività in maniera efficiente nei passati anni, e questo è accaduto, oggi stanno emergendo con livelli estremamente interessanti di earning, quindi di guadagno, di profitto. E questo fa sì che stiamo notando in maniera sempre più evidente fasi di acquisizioni di alcune aziende capaci di allargare la loro dimensione proprio sfruttando questa loro capacità di aver generato profitto. Aziende europee ce ne sono molte e quindi rimane oggi il nostro settore preferito, Azioni Europa. Azioni Europa. Allora, intanto ci sono già degli ascoltatori che si sono messi si sono prenotati per interagire con lei. Dottor Trezzi, le faccio sentire subito Mario da Prato perché ci dà l'opportunità di mantenere il nostro focus sul tema titoli di Stato e tassi di interesse e diversificazione e andare a prendersi qualche rischio. Mario è stato consigliato in questo senso, non è però molto soddisfatto. Sentiamo che cosa gli è successo. Mario, benvenuto. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. No, nulla, come ho spiegato prima, io avevo sempre comprato con BTP, con le liquidazioni, ho 80 anni e ho sempre comprato quelli lì. Ultimamente avevo comprato dei BTP al 37 e li ho venduti, ho guadagnato su 60.000 euro, avevo 70.000 euro, 10.000 euro in più. Allora ho detto sempre cambiamo, mi hanno consigliato, avevo visto comprare un po' di fondi di investimento. Allora ho preso mezzi Fidelity e mezzo un altro Euromobiliare. Vabbè, allora adesso magari non possiamo proprio commentare i fondi di altre case, Mario. Ho capito però quello che le è successo. Da un investimento in un unico titolo di Stato, in un unico prodotto, a Mario è stato suggerito di diversificare quanto più possibile. Intanto un profilo anche anagrafico, con tutto il rispetto del nostro ascoltatore, che è abbastanza particolare, per cui io spero che abbia fatto un colloquio molto approfondito con il suo consulente, perché è passato da una scelta ad un'altra drasticamente diversa. Trezzi, allora, comprati il BTP che era ad un prezzo bassissimo, l'avrà comprato quando lo spread era alle stelle qualche anno fa, quindi come tutti quelli che hanno avuto il pelo sullo stomaco in quel momento di farlo, il capital gain è stato interessante. Beh, diciamo che rappresentava all'epoca una grandissima opportunità e diciamolo subito irripetibile. Quindi non bisogna relativizzare rispetto a quel tipo di investimento. Chi l'ha fatto è stato molto bravo, ma questo capita una volta nella vita. Direi che il passaggio da uscire dai titoli di Stato a andare su fondi di investimento, quindi la diversificazione, è stato un ottimo passaggio per questa persona. Quello che direi va valutato con attenzione è, come dicevi tu, il suo orizzonte temporale, perché se ho capito bene il nostro ascoltatore ha circa 80 anni, direi che deve capire bene qual è l'esigenza di ritorno, certo, che lui ha bisogno. Se ha un capitale da far da proteggere, crescere, per destinarlo naturalmente al resto della famiglia, perché tra l'altro non abbiamo fatto completare il discorso all'ascoltatore, lamentava il fatto che il passaggio ai fondi di investimento è stato doloroso nervoso perché ha già perso del denaro. Effettivamente avrà, come dire, imbroccato questa ultima fase di grande volatilità del mercato azionario, probabilmente, che ha avuto il suo effetto anche sui rendimenti di questi fondi. Direi che se è vero che ha preso la volatilità del mercato azionario, direi che l'investimento non è stato corretto, perché se il suo orizzonte temporale, data l'età che ha, era di guadagnare tramite azioni, direi che è molto difficile questo. Le azioni richiedono un periodo più lungo, 3, 5, 10 anni, e tutto dipende qual è il suo obiettivo. Direi che in generale quello che sappiamo è che oggi come oggi, dove non ci sono trend lineari di mercato, quindi dove non è semplice dire compro solo le obbligazioni, compro solo gli high yield, compro solo gli emergenti o compro solo le azioni, la cosa migliore è di affidarsi a dei gestori che gestiscano prodotti multi asset, certo, cioè dove ci sia una combinazione tra azioni e obbligazioni, anche le stesse commodities e anche le valute, in modo tale da ridurre la dipendenza da una sola dinamica, come è stato ad esempio nel caso delle obbligazioni o delle azioni. Però insomma, un fondo di investimento che replichi il rendimento del BTP comprato su quel prezzo è, come dire, uno scenario abbastanza improbabile. Per un rendimento di quel tipo il fondo di investimento deve avere il suo corso, avere, come dire, un po' di tempo di fronte a sé, e dobbiamo avere un po' di pazienza. Volatilità di borsa, dottor Trezzi, abbiamo visto molto movimento nelle ultime settimane per molti suoi colleghi, anche che sono passati da noi e sono stati seduti sulla sua stessa seggiola di questa mattina, ci hanno indicato uno scenario di volatilità della borsa alla quale dovremo abituarci ancora per qualche settimana, per un po', probabilmente per qualche mese. Voi siete dello stesso avviso? Come ci si protegge da uno scenario di volatilità, oppure, mettendolo in positivo, come si trae profitto da uno scenario di questo tipo, da una condizione di volatilità di questo tipo? Allora, innanzitutto ricordiamo per i nostri ascoltatori che per volatilità intendiamo la variazione ampie di prezzi delle azioni o delle obbligazioni nel breve termine, e questo è molto importante, perché nel momento in cui vediamo un prezzo salire o scendere, se il nostro orizzonte temporale è breve, questo ci sembra insormontabile. La realtà invece è che ci rendiamo conto come nel corso degli anni questa cosa possa essere anche un'opportunità che difficilmente possiamo cogliere se ragioniamo giorno dopo giorno. Quello che certamente sappiamo è che innanzitutto nel momento in cui decidiamo di fare questo investimento, la volatilità può portarci un valore aggiunto, perché in alcuni casi dà la possibilità di entrare a dei prezzi di mercato anche sotto il valore reale del titolo. La realtà è che non sappiamo scegliere questo momento, quindi diversificare il tempo d'ingresso è importante. Diversificando il tempo d'ingresso riusciremo a mediare quello che sarà poi il prezzo finale, ma sappiamo anche che tutto funziona se il nostro orizzonte temporale non è chiaramente breve. Crediamo che ci sia volatilità nei prossimi mesi. Sicuro non sarà una volatilità così forte come quella dei mesi estivi. Detto ciò, sappiamo che siamo vicino alla fine dell'anno, quindi sappiamo che molti grandi clienti, grandi, certo, gestori sistemano le loro posizioni, quindi potrebbero avere delle uscite forti come degli ingressi importanti. E non è quindi un caso che stiamo vedendo un grande aumento della liquidità, quindi del denaro contante nella posizione dei nostri clienti. Questo perché si stanno portando a casa delle posizioni e si stanno preparando a eventuali nuovi ingressi, certo, verso fine anno o inizio anno. Allora, richiamato peraltro quello che è successo la scorsa estate, tutta colpa della Cina, se abbiamo visto una volatilità d'agosto del tutto inaspettata. Sul tema cinese ritorniamo tra poco perché è molto interessante. Peraltro, sai, cara Nicoletta, che la settimana prossima c'è la riunione del Partito Comunista dove si discuterà dei programmi economici e sociali per i prossimi 5 anni. Sì che questi signori hanno degli orizzonti temporali di lungo periodo. Esatto. E allora, sì, che facciamo? Sono le 11.46. È il traffico, è tempo di sentire il traffico, sì, andiamo. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Cuore e Denari. La La sigla di Rischia Tutto la riconoscete, perché vi faccio subito il nostro domandone di oggi. Allora vi chiedo, se siete stati attenti alla prima parte della trasmissione, dove si tiene la riunione odierna del direttivo della Banca Centrale Europea? A coloro che risponderanno per primi apriremo appunto la nostra a coloro che risponderanno correttamente, poi magari insomma due o tre ne possiamo accontentare. Sì, oggi è una grande giornata di libri, è vero, tra Giacomo Poretti la libreria di Cuore Denari oggi. Wow, si fa incetta. Allora, 800 24 00 24, ribadisco il numero verde, perché valgono solo le risposte date attraverso il numero verde, per cui per chi interviene in diretta. Sergio Trezzi, Country Head per l'Italia di Invesco, con noi questa mattina per Investire Informati. Allora, eravamo rimasti al tema Cina, perché è stato il grande tema che ha movimentato tutta l'estate. Sono tutti preoccupati perché la Cina non cresce più come nel passato, invece di avere un PIL che cresce del 10-12%, cresce solo di quasi il 7%, Nicoletta. Pensa, quasi il 7%. Quasi il 7%. Proprio nei giorni scorsi è stato diffuso il dato, più 6,9% nel terzo trimestre del 2015. È la peggior prestazione dal 2009. Come vivete come Invesco, dottor Trezzi, questa situazione? Insomma, dobbiamo preoccuparci così tanto? No, viviamo che la Cina ragiona con un PIL di 3-4 volte quella dell'economia europea e anche americana. 200 volte quella italiana. Direi che il punto non sta esattamente quanto è grande la crescita del prodotto interno lordo, ma direi qual è il driver, quindi il motore della crescita cinese. E come si è accennato prima, il governo sta pensando, o partito come nel caso della Cina, quale sarà il suo programma nei prossimi 5 anni. E direi che il diavolo sta tra le righe qui, perché la Cina sta attuando un cambiamento strategico della sua crescita, cioè vuole passare da portare le esportazioni quale elemento principale della crescita a creare una forte domanda interna. Certo. E questo non crescita è un lavoro semplice su base domestica. E questo non è un lavoro semplice, perché implica un cambio sociale e culturale enorme, ma anche di diffusione di ricchezza e di perdita di potere potenzialmente, o di cambio di potere. Direi che questo è l'elemento più importante che noi guardiamo nella Cina oggi. Non guardiamo se cresce o meno, ma guardiamo come cresce, perché questo poi ha un impatto su che cosa? Sui lavori delle infrastrutture, sul modo in cui vengono fatte le tassazioni, sul modo in cui la ricchezza viene diffusa. Oggi esiste una classe media interessante, ma che comunque rappresenta il 30% di più di un miliardo di popolazione. Quindi direi che questo andrà monitorato nei prossimi mesi, ma che ci piace anche, perché vuol dire che il mondo stesso diventerà a sua volta più capace di gestire la problematica Cina in maniera indipendente. È più ordinata. Peraltro, scoppiata la bolla, praticamente in realtà mi sembra che oggi il mercato azionario cinese sia un filino più ordinato, no? Come andamento, come trend rispetto all'estate. Sì, assolutamente, ma non dimentichiamoci anche che la Cina è un paese molto giovane sul lato finanziario, e parlavo con alcuni miei colleghi e avremo, credo che anche gli ispettori abbiano sentito che per alcuni giorni il mercato cinese è stato bloccato, non si poteva più vendere azioni. Sfortunatamente le autorità si sono dimenticate di dire che le società di fondi non potevano più rimborsare, mentre invece questo è accaduto. Quindi ci si trovava con un mercato chiuso, clientela che chiedeva il rimborso dei fondi, le società di gestione che non erano in grado di fare questo. E questa è dimostrazione di quanto ancora siano molto fragili dal punto di vista della regolamentazione e della gestione di questi problemi. Questo serve anche per capire che quando parliamo di Cina continuiamo a parlare di un mercato che sta crescendo, ma che non può essere paragonato alla ricchezza e alla capacità anglosassone europea. Allora, prima di fare un ragionamento, non abbiamo molti minuti, sul BRIC, sull'area dei paesi che qualche anno fa era considerata molto promettente, Brasile, Russia, Cina ed India, le faccio fare una parentesi su un tema di grandissima attualità, dottor Trezzi, sul quale ci eravamo preparati, grazie alla domanda di Angelina da Modena. Angelina, benvenuta. Angelina, dov'è? Sono qua. Ci dica tutto. Ma stamattina sentiva, anzi stamattina molto presto, che la Ferrari guadagnava, non so, il 17%. Sì. È successo ieri, Angelina, Ferrari si è quotata sul mercato americano, Wall Street, c'era grandissima attesa, tantissimi grandi investitori hanno voluto far propria una quota di questa società che vale praticamente, è stata valorizzata 10 miliardi di dollari. Sì, ha fatto quando è avvenuto il debutto alle 15.30 più 16-17% subito, poi ha chiuso con più 6. Comunque il prezzo di debutto era stato fissato a $52, ha chiuso a 55. Tutto questo, dottor Trezzi, in uno scenario in cui lo scandalo Volkswagen ha messo invece proprio in croce il comparto automobilistico. Voi, come settore industriale su cui investire oggi, come lo vedete? Allora, crediamo che all'interno del settore vanno chiaramente fatte delle differenze. È chiaro che la Ferrari ha avuto un ottimo inizio, forse spinta anche da abbastanza, direi, euforia e magari anche un difficoltà di altre case automobilistiche. Certamente sembra essere una buona azienda. Direi che difficilmente guardo il singolo titolo, perché dal nostro punto di vista è molto più una questo gestione di questo è più un titolo lusso o perché è nella categoria race, no? Corse a Wall Street. Infatti, titolo sogno, direi. Non c'è questa categoria, no? No, è giusto, perché abbiamo visto come è indicato. Dico libro, allora. Adesso te lo firmo. Ma no, un bel prospetto informativo di un fondo Invesco e regaliamo a Nicoletto. No, direi che sì, viene indicato come settore automobilistico, ma è prezzato come una fashion. In effetti questo, ma se mi lascia solo 30 secondi, certo, per 40. Spiegare proprio questa cosa della Ferrari, c'era proprio un articolo oggi sul Sole 24 Ore che mi è piaciuto tantissimo, che parlava della sfida italiana. Questa sfida italiana raccontava come la Germania è impantanata sullo scandalo Volkswagen, che, diciamolo bene, non è un dieselgate ma è una vera truffa. È l'editoriale di Alessandro Plateroti, vice direttore del Sole 24 Ore, grazie per averlo richiamato. No, bellissimo, perché la Germania è impantanata, Belgio e Olanda rischiano di perdere il loro status di rifugio fiscale per le società straniere, Grecia è in terapia intensiva, la Spagna è sotto osservazione per il rischio elettorale, il Portogallo ha un po' di instabilità governativa e l'Italia inizia ad emergere con grande brillantezza. Pare che ieri a Wall Street in molti abbiano chiesto who's next, chi è il prossimo che arriverà, insomma, di brand vostro importante sul quale possiamo puntare. Assolutamente, e quando vediamo che le Poste rappresenteranno la più grande IPO di public offering in Europa, è un altro esempio, perché quello che non ci dobbiamo mai dimenticare è che tutto è relativo, non è assoluto, cioè viene fatto nel mercato finanziario un confronto tra cosa va bene e cosa non va bene, non che cosa è giusto in assoluto, e questo non va mai dimenticato. È un bel ragionamento anche di psicologia finanziaria che dovremmo rimandare a rifare con lei in un'altra puntata, dottor Trezzi. Allora, la prossima volta che viene a trovarci, tutta la puntata sarà sui BRIC che oggi dobbiamo accantonare. 5 secondi, Gigi da Brescia, dove si riunisce oggi la Banca Centrale Europea? Sì, si riunisce alla Valletta. Volevo ringraziare voi che siete le mie due donne di resine di quadri, perché siete sempre puntuali e sempre, grazie, sempre Gigi. Precisi. Regine di quadri, ma non quadrate, perché siamo abbastanza... No. Che ti è piaciuta questa? Dottor Trezzi, grazie molte per essere grazie stato con noi. Grazie mille. Noi abbiamo terminato la puntata con Giacomo Poretti di Investire Informati, anche molto bella. Torniamo domani, però, promesso, puntuali. Volentieri alle 10.30. Buona domani. Giornata a tutti.